Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ricordo appena la storia del signore che mi sta davanti. Uomo elegantissimo, non giovanissimo, di grande distinzione. E lui a ricordarmi nei particolari qual era la vicenda che ascoltai dalla sua voce non molto tempo fa in un viaggio in treno. Una storia di prigionia, di incarceramento, di una persona che innocentemente aveva pensato di essere così irresistibile da meritarsi il favore amoroso di una donna che fu invece la sua rovina. Ora la novità è che questo signore tra le mani tremebonde stringe un libro dove ha scritto e raccontato tutta la sua vicenda, e quindi non trovo occasione migliore che farmela raccontare con nuovi e struggenti particolari. Perché il titolo è Sesto Raggio a San Vittore col cappottino di cammello? Perché quando sono stato arrestato per tradurmi a San Vittore, ho indossato un cappotto di cammello perché era ricco lei in quel periodo, cioè era benestante. No, stavo bene, certo, stavo bene, avevo il cappotto di cammello, avevo uno spider e allora l'abbiamo intitolato così, ecco. Ecco, che impressione ha suscitato nelle guardie appena entrato, che c'è, cioè, penso, quel rituale dello spogliamento e della presa in carico? Sono stato guardato con curiosità innanzitutto, no? Perché mi sono presentato elegante, con questo cappotto, con una giacca di lana interessante, un pantalone, la scarpa lucida, e mi guardavano un po', perché di solito chi viene tradotto in carcere è un po' messo male in arnese. Vestito, no? Da poveraccio, certo. Sì, da povero, così un po' affazzonato. E io ero piuttosto elegante, poi tranquillo, tutto tranquillo, nel senso che ero agitato, però come uno che non avesse veramente commesso nulla. Ecco, rifacciamo un attimo un po' di storia all'indietro, così mi ricorda bene. Sì. La storia come comincia? Tutta la storia per cui poi lei un giorno si trova col cappotto, allora, di cammello in carcere. Tutta la storia inizia con un parente, un pseudo parente, che mi dice: senti, io avevo prima una finanziaria, no? Dove facevo tenere prestiti e compagnia bella. E mi telefona e mi dice: senti, ho un'amica, più che altro una collaboratrice, che è messa male in arnese anche con la salute, avrebbe bisogno di un intervento, di un prestito, perché deve fare un'operazione. Cioè un caso umano, una povera donna. Era un caso umano, esatto. Dice: guarda, se non puoi tu, vedo di darglieli io, indebitandomi quelle palle lì. E lei se l'è presa a cuore, questa povera donna? Sì, parlando così, guarda, mi fai anche una cortesia, anche perché deve incassare delle polizze assicurative e compagnia bella, perciò c'è stato proprio un intervento di pochi giorni. questo era il discorso. E allora dico, vabbè, mandamela, fammela vedere un attimino, e lui me l'ha inviata in ufficio, me l'ha mandata in ufficio, lei è venuta. E che impressione le ha fatto questa signora? Ma si è presentata molto bene, gli dico la verità. Non era un caso umano, una poveretta? No, a vederla non sembrava proprio un caso umano, sembrava più una presa per il fondello. Però insomma, poi dopo parlando me ne sono fatto una certa ragione, ecco. Io ho dedotto onestamente che questo pseudo parente, per mantenere rapporti con questa tipa e beneficiare magari di prestazioni occasionali, voleva così. Ma qui diciamo c'era un doppio fine, un turpe doppio fine. Sa, col mondo che gira in disordinata maniera, era da, l'ho pensato, ecco, cioè, qui nessuno fa niente per niente, ero arrivato a questa conclusione, perciò a me prestarle questi 3 milioni non mi interessava, anche per pochi giorni, vabbè, dico, faccio la conoscenza di questa tipa e buonanotte. Anche perché sembrava un'esperta in assicurazioni, dico la verità. E al momento stavo mettendo in piedi anche una compagnia per la cessione del quinto dello stipendio, che abbracciava anche una parte assicurativa, perciò poteva anche tornarmi utile eventualmente. E allora è nata così, ci siamo visti e gli ho prestato questo denaro. Sono andato nel suo ufficio e mi ha fatto all'inizio così abbastanza buona impressione. E poi l'ho rivisto un'altra volta e lei già cominciava a essere piuttosto così affettuosa, diciamo. E dico, per due volte che la vedo mi sembrava esagerato, e poi si era proposta con un abbigliamento particolare, nel senso succinto. Why do you let me stay here all by myself? Why don't you come and play here? I'm just sitting on the shelf. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Abbigliamento succinto in un ufficio. In un ufficio, gonna cortissima, un po' scomposta nel sedere, nella seduta, e la guardava con uno sguardo ammiccante. A un certo punto, insomma, c'è, come si dice, casca l'occhio, no? Certo, l'uomo è uomo, certo, è chiaro. E allora niente, mi sono avvicinato e lì è nato il primo approccio. Il primo approccio con un lungo bacio. Ma così scaturito da nulla, soltanto per una sorta di una chimica fisica, l'aveva affascinata. La sua poteva essere riconoscenza per il danaro che gli avevo dato. Ma scusi, a lei non viene il sospetto, lei presta soldi a una donna, questa gliela dà all'improvviso, che poi non, i soldi se li ha perduti, avrà conquistato la donna. Alla fine sì, certo, ho perduto, per carità, ma poi dopo andiamo nella tragedia, perché la cosa, siccome è andata avanti, lei rimandava la restituzione. Ma quindi siete diventati più, a tutti gli effetti, degli amanti, eravate due amanti. Pseudo amanti, sì, è vero. Infatti io non gli chiedevo più il ritorno del denaro, però ci vedevamo, uscivamo. Vabbè, ormai eravate diciamo, eravate a tutti gli effetti delle persone che hanno una relazione. Anche se questa diceva che aveva fidanzato, che era anche molto geloso, tra parentesi. Forse mi piaceva il rischio. Però di restituirle i soldi non se ne parlava. Ma non se ne parlava, io neanche, non me ne interessavo più, ecco, questo era il punto. Però dopo cosa è successo? Che visto che ero stato adescato, mi chiese un ulteriore intervento, al che io dissi di no, ovviamente. E dice che aveva questa malattia all'utero, grave, doveva andare negli States, anzi era già andata. Ma forse era una scusa per non dargliela più, dice guarda sto male, non posso più. Sì, no, è vero. Indovina, non è ci vuole tanto. Scusa, sai, un'indisposizione. Di solito le donne quando non vogliono più mantenere l'aspetto fisico di un rapporto millantano indisposizioni. C'è una malattia impossibile, non posso più fare. Indisposizione permanente. Certo. Allora, vabbè, a questo punto gli ho detto, vabbè, allora quando mi restituirai i danari? Ah, presto, devo chiudere le porte, adesso parto per New York, quando torno ci sentiamo. Mm. E infatti dopo un mesetto, due mesetti, è tornata e mi invita a casa sua. Io vado a casa sua e vedo una disposizione di mobili un po' strana, no? Cioè aveva cambiato l'ordine dei mobili, e vabbè. C'era qualcosa che non andava. Comunque lei mi prende e mi dice, cioè dai, andiamo di là, va, che ti do il contentino, mi disse. Ma lei si allora fa trattare andiamo proprio così, diciamo, vabbè, ti faccio contento, lo zuccherino. Beh, una cosa, sì, tanto vabbè, potrebbe essere un gioco. Per rinverdire il passato. Diciamo una maniera giocosa per riprendere un rapporto fisico. No, sì, io l'ho presa molto bene. Cioè, ti do lo zuccherino. Allegramente. E mi traduce in camera da letto. Camera da letto, questa si stende, si tira sulle gonne, allora che io dico, ma questo è un invito, indubbiamente, no? E allora mi spoglio, rimango in mutande e le vado sopra. Come vado sopra, questa si mette a gridare aiuto. Certo, aiuto. I preliminari non erano il vostro forte, diciamo. No, per capire. Non avevamo tempo, si vede, no? Sì, lei si stende sul letto, lei si spoglia e letto, sale sopra. Sale sopra, sì. Ma non per penetrazione, no, per giocherellare, intendiamo, perché questa aveva sempre, diceva sempre, alla malattia. Ah, cioè, la malattia invalidante le impediva il rapporto completo. Non certo. Dobbiamo dimenticarlo, sì. Cioè, ma avrebbe fatto qualche colpo di testing, ecco, sì, vabbè. Diciamo, chiamiamolo così. Perché c'era sempre quell'indisposizione. Andava bene, non che niente, no? E grida aiuto, e si spalanca l'armadio e escono due individui. E altri due entrano dalla porta. Questi due individui che sono usciti dall'armadio mi saltano addosso, mi puntano la pistola in testa. Io me la faccio un po' sotto, vorrei vedere anche perché un agguato, perché era gente che non sapevo chi erano, io pensavo che erano il fidanzato con degli amici che volevano vendicarsi di questo pseudo affronto, no? Invece? E invece questi no, dicono carabinieri, però io non avevo le prove, ero sempre dubbioso. Comunque mi sbattono contro l'armadio, gambe aperte, braccio in alto, levato le mutande, una palpata dappertutto e botte. Sì, ma qual era il reato? Cosa aveva fatto di male? Lei era andato alla sua il madre? Il reato era che loro hanno dichiarato che io ho abusato della ragazza, no? Ma più scusi, volte. Non si era stesa prima sul letto invitandola, diciamo, ad accoppiarsi, no? Era tutto creato a quindi donna. erano complici della donna? Oh, ah. Esatto, era complice della donna. E questi mi ha menato anche e poi disgraziato cosa hai fatto? Ma erano veri carabinieri? E poi erano veri carabinieri perché fino all'ultimo ho dubitato, no? Perché mi hanno caricato e buttato su un'auto privata e dice adesso andiamo in caserma, solo che vedevo che passava, era fuori Milano, ero verso Paolo, passavano per i campi con l'auto. E dico, adesso io volevo buttarmi fuori, perché dico, questi qui mi ammazzano, no? E invece? Perché pensavo che erano delinquenti. E invece dove l'ha portato? Erano veramente dei carabinieri che mi hanno portato in caserma. E l'accusa era tentata violenza a questa donna? L'accusa era violenza sessuale e poi dopo hanno detto un sacco di balle, poi dopo al processo verrà fuori poi la verità, no? Però loro fino all'ultimo hanno mentito comunque, perché hanno detto che aveva fatto la registrazione ambientale e che poi non era venuta stranamente, no? Hanno detto che io l'avevo tradotta in camera da letto e l'avevo stesa sul letto. Ma scusi, e poi è seguito l'arresto e l'hanno portata subito a San Vittore oppure? No, subito, no, dalla caserma di San Donato, ecco, ero San Donato, dalla caserma di San Donato, poi mi hanno tradotto a San Vittore. Anzi, prima siamo passati da casa mia. Sono venuti in casa. Ha preso il cappottino di cammello? Esatto. No, l'avevo già su, non ricordo. Sì, mi ero recato già dalla ragazza. A lei gli era montato sopra col cappotto addosso? No, se l'era tolto. No, mi ero spogliato, ero rimasto in grande. Allora, diciamo che dalla caserma m'han preso l'impronta e compagnia bella. E poi sono passati da casa, mi hanno fatto la perquisita, dov'è la droga, di qui e di là, ha guardato dappertutto, poi mi ha detto dai Boselli faccia una 24 ore che la portiamo in caserma, ma tanto poi se ne va dopo 24 ore. Mi ha detto guardi non le mettiamo le manette, però mi raccomando non faccia scherzi, ci figuri, io ero lì che tremavo dalla FIFA, dallo stupore, da tutto. Ero proprio provato abbastanza e allora salgo su questa erano a 7.50 penso e ci hanno tradotto a San Vittore andiamo su andiamo in matricola gli effetti personali, li ritirano gli effetti personali e poi mi fanno la perquisita, mi mettono nudo, a un certo punto mi spavento perché vedo un questurino che si mette il dito di gomma e dico cosa mi manca, se lo fanno sempre, se lei nascondeva della droga non faccia così, infatti mi ha mandato una palpata e basta, hanno accertato che non c'era niente e poi mi ha dato in mano una coperta, due piatti, quattro posate, qualcosa del genere. Il corredo del galeotto. E mi hanno tradotto su al secondo piano, mi sembra che ero, al sesto raggio. Io non sapevo neanche che il sesto raggio era per le violenze sessuali e tutte le nefandezze fatte. Anche un raggio pericoloso, perché sono quelli che proteggono dagli altri detenuti, ha rischiato molto. Eh sì, dove chi teme qualcosa dagli altri detenuti viene portato al sesto raggio. E poi ci sono tutte le violenze più terribili, su minori, eccetera. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me and you know it makes me sad. It's just a cigarette like you always used to do. I was different then, I don't need them to be cool. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ma lei si è domandato come mai tanto accanimento? Perché io mi sono qualcuno gli avrà detto sì. Qualcosa ai carabinieri sì. Per aver fatto questo? Cosa gli ha inventato questa No, lei aveva fatto la denuncia. Allora, è emerso, no? Che lei era andata prima. Allora, siccome c'era ai tempi c'era un prete che si interessava per le persone usurate, no? Uh-huh. E faceva avere, ottenere i fondi alle persone oggetto di vittime di usura, sì, vittime di usura, certo. Di queste vittime. Quindi lei allora è passato da strozzino praticamente. Esatto, e sì, perché l'imputazione poi era anche strozzinaggio, ma ho dovuto provare. Ah, quindi tutto, lei non detto, potendo restituirle i soldi, non volendo restituire i soldi, ha detto questo esatto. È uno strozzino, no, è Mirka. Visto che non gli ho dato ulteriori danari, no? Questa si è incazzata e che si è incazzata, cioè ha fatto di tutto per, no? Ma era, poi dopo emergerà che era già un personaggio che aveva già fatto con altri imprenditori. Beh, era truffatrice, chiaro, chiaro. Sì, esatto. Però lei se l'è vista brutta in quel momento. Però, sa, con complici carabinieri, perché purtroppo dobbiamo dire. Ma i carabinieri sì, però i carabinieri avranno fatto le intercettazioni, avevano secondo me buoni motivi per fraintendere in quel momento, non credo ci fosse cattiva fede, no? O sì, non lo so. No, i carabinieri, non lo so, non so cosa ha combinato con questa tipa, era capace anche di intortarsi i carabinieri, o perlomeno io ho avuto l'impressione che con un appuntato ci fosse qualcosa di più. Ah, l'aveva. In sede processuale poi queste cose l'avrà dette, no? Si sarà difeso. È emerso. Allora, io ho buttato fuori tutto, no? Loro però all'inizio sono stati interrogati e hanno tenuto la loro versione. La posizione. La posizione ha detto che non c'era, non è venuta l'intercettazione ambientale. Mm. Perché il giudice dice, ma l'intercettazione dov'è? Dov'è la registrazione? E dice non è venuta, cioè comodo, no? E quindi qual è stato il verdetto? Il verdetto finale? Sì. Il verdetto finale è stato assolto per non aver commesso il fatto. Ah, per... beh, piena assoluzione? No, la piena alla prima, con un pubblico ministero che ha tentato di mantenere la sua posizione fino all'ultimo. Però fatto sta che poi dopo non ha fatto neanche l'appello. Evidentemente lei non era abbastanza convincente, però alla fine sul piano delle prove. Ma sa che insulti facevo al pubblico ministero io? Muovendo le labbra, no? Sì. Gli ho detti di tutti i colori, intanto così, che lo guardavo. Affanculo, così, muovendo le labbra. Scusi, però così. Scusi, se ne va a cercare. Ma non si fa questo, scusi, ma non si fa questo in sede processuale. Peggiora la sua situazione. Più. Ma lei doveva vedere com'ero conciato, com'ero nervoso. Io ringhiavo. Quanto se n'è fatto di carcere? Quanto se n'è fatto? Ho fatto 6 mesi a San Vittore e un anno ai domiciliari. Innocente. Ma ha avuto un risarcimento, qualcosa? Sì, mi hanno dato 85.000 euro. Ah, vabbè, non è però ho dovuto fare l'appello e compagnia bella. Quindi pagare avvocati, figurati. Non molava, sì, il mio avvocato. Ma perché c'era tanto accanimento verso di lei? Faccia capire. Non lo so, no, guardi, non c'era lo un so. Motivo, perché non si spiega. No, ma l'accanimento era di questa tipa qui che si è innervosita perché si vede, non gli ho dato i danari, così questa qui ormai era rovinata e doveva far fronte a della gente anche strana. Vabbè, lei era messa poi... Ma il suo amico, il primo che gliel'ha presentata, che è l'artefice di tutto, poi ci ha riparlato, ha detto guarda che casino che mi hai combinato. No, ma va, non si è più non si è interessato più di nulla questo parente, come se nulla fosse avvenuto. Come, anzi, si è interessato per, siccome avevo bisogno, per vendermi la mia Spider. Ecco, si è interessato per quello, per far vedere che era, no? Cioè, vendersi la macchina c'ha bisogno di soldi, naturalmente. È terribile, per forza. Ecco, allora, a San Vittore però, a un certo punto è uscito dal braccio, diciamo, di massima sicurezza, ha avuto contatti, sì, con altri detenuti. Lì nel raggio? No, quando è uscito, a un certo punto, è sempre stato in isolamento o ha avuto... No, poi sono uscito all'aria. Cioè, ma agli altri gli hanno chiesto cosa è successo, perché sei qua? Tutti avevano capito, no? Quando entra in cella, c'è un capocella, no? Che vuole vedere prima tutte le carte. No? E io gli do le carte, lui le esamina, dice di là, poi interroga, sai, gente scaffata, cioè sono delinquenti. Beh, vogliono sapere chi si mettono in casa, è chiaro. Chi entra e lì dice ma no, tu non hai fatto niente, qui si capisce, e queste cose qui, vogliono sapere tutto. Poi dopo all'aria... Vabbè, tutti diranno che sono innocenti, però difficile... Innocenti. Sì, certo. Poi dopo, quando sei all'aria, parli con gli altri detenuti, cammini avanti e indietro. Io venivo chiamato per dire il commercialista, perché mi presentavo bene. Era rispettato dagli altri, lo rispettavano. Ero molto rispettato. Non so, mi ero fatto una fama... di persona per bene. Non si è mai fatto, non ha avuto mai momenti difficili? No, mai. Ma c'era chi lo proteggeva, aveva delle persone che lo proteggevano? No, nessuno. Mi offrivano, anzi, quando sarei uscito, mi offrivano un lavoro, ha capito, no? C'erano tutti dei traffici particolari, Forse perché sapevano che lei era benestante, dice, poi magari ci aiuta. Cercavano di estorcere qualche cosina, diciamo la verità. Vabbè, comunque, non ha mai rivisto più nessuno poi una volta libero? No, allora ho rivisto il capocella che era uscito, che aveva 10 anni per spaccio internazionale di stupefacenti, sì, che era un calabrese, della mia stessa età tra parentesi. Siete diventati amici? L'ho invitato a pranzo, no? Sì, l'ho invitato a pranzo. Con cautela, perché... Per così per... Cioè, gli riescono un'altra volta i carabinieri dall'armadio con uno spacciatore in casa per traffico internazionale, stare attento, no? Sì, è vero. Comunque... Magari sarà redento, magari ormai... Ma no, non credo. No, cos'è successo? Allora, l'ho invitato a pranzo e dopo un po' ha cominciato a rompere mille balle, nel senso che mi ha chiamato. Allora io le ho detto, l'ho troncato immediatamente, gli ho detto non rompermi più i coglioni, Salvatore, è finita, è stato un periodo, ti saluto. Recentemente la mia ex moglie mi ha detto che ha telefonato un compagno di collegio, no? che voleva salutare. Era lui Salvatore. Sì, era lui sicuramente. Io ho detto, tu cosa gli hai detto? Io ho detto che tu non abiti qui e che non so dove sei. Ma la moglie nel frattempo che fine aveva fatto e tutti questi traffici? Lei con chi? Sua moglie, quella ex moglie. No, c'è sempre, io sono in ottimo contatto anche perché ho aperto una gelateria e la mia attività si svolge nel caseggiato dove abita lei. Sì, ma lei come ha vissuto il periodo che lei è stato incriminato, incarcerato per un reato orribile? C'era già al tempo l'ex moglie? Sì, no, ma erano, mi sono stati molto vicini, sia la mia ex moglie che mia figlia. Quindi non stava più, no. Non era sposato ancora, era separato? No, ero già separato. Ah, separato dall'84. Ma non le ha mai detto, guarda che cazzata che hai fatto, hai visto te con le donne? No, nel modo più assoluto. No, sono stati molto carini. Però un po' di debolezza lei l'ha avuta, perché se lei non cedeva alla lussuria, questa cosa non succedeva, sì, no? Sì, certo, è vero. Ha pagata carissima. Se io non mi facevo pindolare e non mi cascava l'occhio, me la sarei cavata, ecco. Avrei risparmiato denaro e tutto il resto. E questa donna che fine ha fatto? La donna che l'ha rovinata? Allora, questa donna non abbiamo più notizie. L'ultima, allora, quando sono andato a ritirare, tra parentesi, i miei documenti, i miei effetti personali in caserma, il tenente mi ha detto, guardi, ci scusi, prima di tutto si sono scusati. E io ho detto, grazie al cazzo. Si sono scusati e poi mi ha detto farà una brutta fine, verrà incarcerata, tutte quelle invece... balle lì, e io ho detto non sappiamo più nulla. Je suis le seul. avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Adesso che ha scritto un libro di questa storia, tutta raccontata in un libro, esattamente sì, come me l'ha raccontata. Esatto. Cosa fa? Va in giro per l'Italia a presentare il libro? Cosa fa? No, adesso stiamo vedendo con la scrittrice. Ah, perché gliel'ha scritto una scrittrice? Sì, l'ha scritto la scrittrice, la Cinzia De Martini. Guardi, per quello, per come l'ascolto, stupidità. La seconda volta racconto, sento questa storia sempre con maggiori particolari. Non mi spiego ancora un odio così cieco e così totale da parte della tipa, perché tutto sommato lei i soldi all'inizio li aveva dati, non è che non li ha dati per niente, ne ha continuati a dare, ma uno alla peggio se ne fa una ragione, se dice, perché non era obbligato, cioè se lei fosse stata la persona che doveva restituirle dei soldi posso capire, deve ridarmi dei soldi, lo odio, ma certo. Non si è fatto estorcere più di tanto, qual era lì? No, certo. E perché la odiava tanto? Alla fine diceva, vabbè, dai, non più, ce l'ho provato, più di tanto non ci riesco a portargli via. Ecco, non è motivo di odio così profondo, no? Ma il suo intento era quello di far risaltare il suo stato di necessità e la richiesta di danari a me, ma non è che si è fermata a dire che gli ho imprestato 3 milioni, è andata avanti a dire 20 milioni, 30 milioni. È lì, ecco, l'oggetto della truffa era millantare, certo. Ancora più soldi. Si profilava, certo. Allora l'idea che lei fosse uno strozzino, perché no, 3 milioni fatto, per quanto sia, non è di quelle cifre per cui. Ma no, che ci stava dentro, infatti, vede, non ho battuto ciglio. È un prestito fra amici, si può fare anche. Ma, ci mancherebbe. Una cortesia, questo parente qui, però questa se poi si è inventato tutto un castello che non so come abbia fatto andare avanti, infatti in tribunale continuava a piangere perché era subissata dall'interrogatorio pressante anche da parte del giudice e del PM, un pirla proprio coi fiocchi. Tra parentesi, l'ho incontrato nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, l'ho incontrato fuori, l'ho incrociato, l'ho guardato, è diventato rosso come un peperone sta testa di cane. Ma evidentemente dagli atti o dal punto di vista suo sembrava che lei fosse un truce strozzino per una povera donna. L'hanno capito tutti che potevo essere solo innocente. L'hanno capito i questorini quando venivo tradotto in tribunale, che mi mettevano nudo nelle cantine e mi dicevano no, lei non si spogli, ma lei cosa ha fatto? Cosa fa qui? Cioè si chiedevano questo, oppure quando tornavo dal parlatorio tutto bello abbronzato perché prendevo il sole all'aria, no? Tornavo dal parlatorio e mi invitavano a prendere, non andare sulle scale, che l'uscita era dall'altra parte, cioè potevo uscire e ha capito. Ma durante le udienze le è mai capitato di averci di fronte di nuovo? Quando magari ha testimoniato, ha fatto una dichiarazione, trovare di fronte chi? La signora. No, c'era. Ah, c'era. Qui tutto il processo se l'è vista davanti. Il tribunale. No, c'era, continuava a piangere. Vi hanno messo a confronto anche? No, confronto no. Poi quando deponeva la vedeva, lei stava lì, stava sì, certo. In certo, mezzo a due carabinieri, certo. con le manette e lei l'altra deponeva. No, ero senza manette, accanto al mio avvocato. Sì. Sì. E questa piangeva? Lì, piangeva, diceva continuava a piangere. E dire cosa? Perché aveva dichiarato che era stata a New York, era partito due giorni prima, e poi è emerso che non era andata a New York. Allora il giudice gli dice, ma lei ha mentito anche al pubblico ministero. Il giudice poi si incatta anche col pubblico ministero. Dice, ma lei che indagine ha fatto? Come per dirgli, sei proprio un coglione. Tra parentesi, comunque, poi è stato promosso in corte d'appello. Comunque che era una donna abile, su questo ecco. La donna era molto abile, no? Ma no. Vabbè, no. Era ma Sei riuscita a convincere... Era pazza, secondo me era matta. Ma mica tanto matta. Ma questo ministero è un coglione. Vabbè, io capisco il fatto di essere stato innocentemente recluso, accusato di reati orribili, poi era del tutto innocente, un po' lascia la bocca amara, questo è chiaro. Ma poi mi scusi, questa dice, afferma che le violenze, prima erano 10 le violenze, poi sono risultate solo 2, e dice no, ma solo completamente 2. Allora ha detto la data precisa e il giorno preciso. Questo è il punto. Vabbè, che se le rassegnate, allora, se le rassegnate oggi. Il mio avvocato insiste, gli dice, ma è sicura? Giorno da... Ecco, poi mi ha dimostrato che una volta ero al mare e l'altra volta ero andato in banca. Cioè non potevo essere lì a violentare questa qui. Allora giù a piangere ancora. È terribile. E poi diciamo che è molto grave, perché mette anche le ombre di sospetto e di dubbio per tutte le donne che poi realmente subiscono queste cose. Sapere vabbè, che... sì, beh, ce ne sono tante, sicuramente tante che ne succedono, che uno è propenso a credere logicamente, certo, peggio, era la parte più debole, dice sì. Questo è un disgraziato di qui e di là. Ma quando è uscita, poi quando è uscita è finito tutto, è stato... Ha notato da parte dei conoscenti un po' di sospetto, come per dire, ma chissà, no. Ci hanno creduto tutti. Ho incontrato grande solidarietà, ma da tutti quelli che erano al corrente, e tutti hanno subito detto dall'inizio, Bruno non ha certamente fatto una cosa del genere, perché non avrei avuto mai bisogno di violentare nessuno, perché me la davano così. Ma anche per dire, i grandi stupratori possono dire la stessa cosa, che vuol dire? Sì, no, è vero, però può accadere a chiunque, trovarsi in difficoltà con la giustizia innocente. Mi tenga informato sulle presentazioni, San Vittore... col cappottino di cammello, sesto raggio, esatto, di Bruno, esatto. Boselli. È un libro interessante che racconta la storia vissuta di un mio compagno di viaggio. Sì. Vabbè, io le auguro che qualcuno magari un domani ci faccia un film, un telefilm, perché è una bella storia. Boh, la vediamo. Scena dell'armadio è una scena fantastica. È bellissima. Lei in mutande, con escono i carabinieri dall'armadio. Mi sembra... Quella è bella, è quasi incredibile. Sì, sì, la fa passare la voglia per il resto della vita, perché diciamo la verità. Cazzo facevano, cazzo, non sono sopportato. Dentro, Beh, due nell'armadio, un armadio normale. Vabbè, sono addestrati a resistere in quelle situazioni. Sì. Sono gruppi speciali, per i miei discorsi. Sì, è vero. Vabbè, buon viaggio, grazie di avermi raccontato altri particolari di questa storia avvincente, e alla prossima gita alla prossima. In treno insieme. Alla prossima. Film and helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. You've been wanting me forever and you just can't say. On the foreheads of the lovers wrapped in your arms. You've been hiding them in hollowed out pianos left in the dark. Got the music in you, babe, it's only well. Got the music in you, babe, it's only well. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo iltrenova@radio24.it. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.